Angolo B. B. B. Hey, things won't be strange any day now. They change every day. Hey, things won't be bad all the time now. They bad all the time. But hey now, little lady, this is a tragic sign. Buongiorno, buongiorno, sono le 8 e 39 minuti e questo è Angolo B. La pagina sul locale di Bologna, questa mattina ci spostiamo in provincia a Marzabotto. Infatti domenica 30 di marzo si terrà un'iniziativa organizzata da Costituzione La Via Maestra. Tra i promotori il comitato Acqua Bene Comune e il comitato Voci delle Resistenze di Marzabotto. Insomma, e gli ospiti sono diversi e anche di un certo rilievo. Per parlare di questo noi abbiamo dall'altra parte del telefono, proprio a Marzabotto, Dante Franchi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, com'è nata questa iniziativa e perché Marzabotto? Siamo abituati a vedere queste iniziative organizzate nel capoluogo. Sì, sì, è vero, la sua considerazione è giusta. Questa iniziativa tanto nasce da una prima chiacchierata fatta fra chi vi parla e il responsabile del movimento dell'Acqua Bene Comune di Bologna, Andrea Caselli, proprio in occasione della manifestazione romana del 12 ottobre, alla quale insieme abbiamo partecipato. E Marzabotto è una scelta che si motiva in questo modo. E noi, intendendo dare un seguito a quell'iniziativa nella quale crediamo molto, riteniamo che i luoghi e la storia di Marzabotto oggi ci ricordino la Costituzione repubblicana e desideriamo rappresentare, appunto, riteniamo che il nome di Marzabotto, unitamente a un luogo tanto simbolico ed evocativo come quello di Montesole, dove sono quotidianamente impegnati nella trasmissione della memoria tanti soggetti, e il luogo dove, come dice Calamandrei, i luoghi dove è nata la nostra Costituzione, possa rappresentare un modo efficace per dare continuità alla prima iniziativa svolta sia a Roma il 12 ottobre. Ecco, a proposito di questa continuità, sono diverse le anime che fanno parte di questo movimento, si vede anche dagli invitati al convegno. Sì, intanto è giusto ricordare o rappresentare che a questa iniziativa sono presenti ben due dei firmatari dell'appello che fu posto a base della manifestazione del 12 ottobre, Maurizio Landini e Lorenza Carlassare. Altri soggetti, come vede, anche come si vede dai diversi documenti che abbiamo fatto girare, sono coinvolti proprio esattamente per la intenzione di riportare a concretezza i temi che noi riteniamo stiano in questo momento al centro della Costituzione e del bisogno di difenderla: la rappresentanza della democrazia, il lavoro, il reddito e i beni comuni. Ecco perché la presenza di diverse figure che appunto possono relazionare e discutere con competenza su questi temi. Inoltre riteniamo anche che questo sia un momento importante, questa è la nostra intenzione, in cui si possono in un qualche modo ritrovare, riconoscere diverse sensibilità, si possono riconnettere i fili di tante situazioni che sono presenti nel paese e che fanno fatica a trovare i luoghi in cui confrontarsi e focalizzare poi anche le priorità su cui impegnarsi. Questo è anche l'intento che diamo a questa cosa. Si guarda anche alle elezioni europee, insomma, sono alle porte, tra gli invitati c'è anche Ivano Marescotti che è candidato alle elezioni europee con la lista Tsipras. Questo è vero, però non vorrei, e non per reticenza, che non fosse chiara una cosa. Nel momento in cui noi abbiamo progettato, ideato questa iniziativa, questo non era ancora assolutamente previsto, così come la disponibilità, che qui voglio ringraziare ancora, di Ivano Marescotti a partecipare, a contribuire alla riuscita di questo evento, precede decisamente la sua candidatura alle elezioni europee e pertanto, come dire, non è necessariamente legato a questo aspetto. Vorremmo guardare un pochino più, se si può dire così, ma forse non è corretto, guardare un pochino, il nostro traguardo è un po' più ampio e va un po' più là nel tempo rispetto a questa scadenza importantissima, naturalmente. E allora ci vuole ricordare precisamente quando, dove sarà l'iniziativa e anche appunto se ci vuole lasciare qualche contatto per qualche ascoltatore che magari è più interessato e vi vuole contattare? Ecco, l'iniziativa si tiene a Marzabotto domenica 30 marzo a partire dalle ore 15 nel Teatro Comunale. Chi vuole partecipare, aderire, trova una mail marzabottoviamaestra@gmail.com, una pagina Facebook, la Via Maestra Marzabotto, o due recapiti telefonici che, se vuole, posso riportare, che sono 328 23 16 311 331 486 1078. A partire dalle ore 15 si alterneranno sul palco gli oratori principali ed è previsto anche l'intervento, riprendendo un attimo il ragionamento col quale avevamo aperto, di un rappresentante, di un fratello dei Dossettiani, della famiglia dell'Annunziata, che ha sede a Montesole. E si va avanti per tutta la giornata? Si continua fino sicuramente a oltre le 19:30. E allora grazie mille a Dante Franchi del Comitato Voci e le Resistenze, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata. E io vi ricordo anche che il convegno sarà moderato dalla nostra Giusy Marcante. E allora adesso un po' di musica e poi andiamo a parlare di Piano Freddo che finisce ed Emergenza Casa.